I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Sebastiano Barisoni. Vedremo come andrà a finire l'incontro tra il Premier Matteo Renzi oggi e una delegazione dell'ANCI, ossia di chi rappresenta i comuni italiani, guidata dal suo presidente, nonché sindaco di Torino, Piero Fassino. Vedremo cosa otterranno e cosa riusciranno a spuntare i comuni. In ballo, come ricordato oggi da tutti i giornali, ci sono soprattutto i tagli alle città metropolitane e una sperequazione tra i tagli, per esempio a Milano, il 7%, o Bologna, il 5%, rispetto a Firenze, Napoli e Roma, che avranno tagli, stando alle previsioni del governo, superiori al 20%. Ma al di là di quello che sarà l'accordo definitivo e al di là del fatto che il governo possa invitare i comuni ad utilizzare maggiormente forme di tassazione locale, sullo sfondo resta un approccio che ci permettiamo di dire essere sbagliato. Il governo ha bisogno entro venerdì di indicare come otterrà 10 miliardi di risparmi dalla spesa pubblica per non far scattare le clausole di salvaguardia, ossia gli aumenti automatici di IVA e accise dal 1 gennaio, che varrebbero 16 miliardi. Per farlo però assegna a regioni e comuni un taglio tra i 2 e i 4 miliardi. Ora, la spending review è un'altra cosa, non è un taglio lineare che poi rischia inesorabilmente di ripercuotersi sui cittadini con l'aumento della tassazione locale. La spending review invece vuol dire tagliare singole voci, andare nel dettaglio delle singole spese dei ministeri, ma non solo, scaricare buona parte dei tagli della spesa pubblica agli enti locali non solo è troppo facile, rischia soprattutto di essere inutile e dannoso per la ripartenza dell'economia italiana. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Salvatore Padula. C'è una piccola schiarita sulla vicenda del debito greco. Come aveva annunciato il ministro delle finanze greco Varoufakis, il governo di Atene ha rimborsato il Fondo Monetario Internazionale del prestito di 450 milioni di euro che scadeva oggi. Si tratta di un fatto non così scontato che, secondo alcuni osservatori, indica che sul caso greco si stanno facendo, seppur lentamente, passi avanti. Lo ha ricordato per esempio il ministro Padoan, aggiungendo che è nell'interesse di tutti evitare un'uscita della Grecia dall'euro. Certo, la schiarita di oggi sarà presto attesa ad altre verifiche. La Grecia deve far fronte ad altre due tranche di rimborsi di vecchi prestiti e deve rimborsare un'ulteriore quota al Fondo Monetario Internazionale. In totale, nel prossimo mese, da qui a un mese, la Grecia deve rimborsare 3 miliardi di euro del vecchio prestito. È il motivo per cui alcuni grandi operatori internazionali si mostrano in queste ore un po' meno ottimisti sull'esito finale della crisi e non escludono l'eventualità che la Grecia possa a un certo punto essere costretta a uscire dall'euro. Intanto a Bruxelles proseguono i lavori dei politici e dei tecnici che stanno valutando la reale portata delle riforme che la Grecia si è impegnata a fare. È un lavoro difficile di rifinitura per arrivare a un accordo che dovrà sbloccare l'ultima tranche del vecchio piano di aiuti per 7,2 miliardi di euro, una somma assolutamente indispensabile per il salvataggio di Atene. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.